Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. Partiamo da una notizia che arriva dall'America per parlare di una prospettiva molto affascinante, ovvero la possibilità di creare dei dispositivi elettronici flessibili, stirabili, come per esempio dei tablet che sono capaci di passare dalla taglia small a quella extra large, o come per esempio lo schermo realizzato dagli ingegneri della Michigan State University negli Stati Uniti, che ne hanno descritto le potenziali applicazioni sulla rivista ACS Nano e che commentiamo, per cominciare, con l'aiuto di Mario Caironi, ricercatore dell'ITI, l'Istituto Italiano di Tecnologia, impegnato proprio in questo settore di studio, quello cioè dell'elettronica organica, l'elettronica senza silicio. Buonasera Caironi. Buonasera. Allora, intanto le chiedo che cosa pensa di questo lavoro dei suoi colleghi della Michigan State University, se è un lavoro intanto significativo per mandare avanti la causa, diciamo così. Sì, è assolutamente un lavoro interessante, che di fatto viene mostrato per la prima volta che è possibile deformare fino al 50% delle sue dimensioni un semplice circuito plastico, mantenendone sostanzialmente inalterate le proprietà, e come dicevo, per la prima volta questo viene fatto con materiali che hanno una prestazione elettronica interessante. Ecco, questo soprattutto nei nuovi materiali utilizzati c'è una parte di novità di questo lavoro. Ecco, lei ha parlato di plastica non a caso, perché questa elettronica organica è effettivamente un'elettronica in cui il silicio viene sostituito da dei materiali polimerici, delle plastiche appunto. E veniamo proprio al suo lavoro. Lei è a capo di un progetto finanziato dallo European Research Council, progetto dal nome HEROIC, High Frequency Printed and Direct Written Organic Hybrid Integrated Circuits, nome molto lungo, io lo traduco velocemente con elettronica organica ad alta velocità, diciamo così, progetto di 5 anni, iniziato ad aprile 2015. Perché parliamo di alta velocità? Perché il problema è che anche se noi disponessimo oggi di uno di quegli schermi di cui abbiamo parlato finora, progettato alla Michigan University, probabilmente dovremmo aspettare un quarto d'ora tra un'immagine ed un'altra. Sono molto lenti questi circuiti. Sì, questa lentezza è proprio deriva da questi materiali che vengono utilizzati, che hanno sì proprietà elettroniche, ma sono molto inferiori a quelle a cui siamo abituati, diciamo, dei dispositivi che tutti abbiamo in mano, portatili, telefoni cellulari. Per cui c'è da un lato una ricerca su materiali nuovi che possono avere prestazioni sempre migliori. Per fare un esempio, insomma, un computer per lavorare velocemente deve spostare delle cariche elettriche molto velocemente, no? Questi materiali sono più lenti nello spostare queste cariche elettriche, sì, per capirsi. Loro natura hanno le cariche all'interno di questi materiali, si muovono con più fatica, quindi certo, con più dispendio rispetto a materiale come il silicio. Quindi questa è una parte del lavoro. Dall'altra, per in qualche modo soddisfare alle promesse di questa tecnologia, che è quello di realizzare circuiti appunto leggeri, flessibili e a basso costo, tutto deve essere compatibile con tecniche di stampa. Quindi questi materiali vengono processati, sono plastiche, con tecniche derivate dalle arti grafiche. Il problema è che queste tecnologie non soddisfano quello che sono i requisiti dell'elettronica miniaturizzata. Ecco, immaginiamo che parliamo di oggetti non tanto lontani da una stampante a getto d'inchiostro, idealmente. Esattamente. E sì, quindi sì, sono fatti per un certo livello di dettaglio, che è quello utile a realizzare un oggetto stampato, mentre normalmente quando si fanno dei circuiti elettronici si creano dei dettagli molto più piccoli, ordini di grandezza, centinaia di volte più piccoli. Sì, e questo è proprio il punto, quindi bisogna utilizzare una tecnologia sviluppata per una definizione che è quella del visiva, per cui l'immagine, certo, deve essere bella da vedere, a una definizione che è quella dell'invisibile, certo, che caratterizza l'elettronica. Ha dei dettagli che dovremmo poter vedere con un microscopio elettronico addirittura, quindi con tantissimi ingrandimenti. Insomma, perché più piccoli sono questi circuiti, più sono veloci. Questo è un fatto fisico sostanzialmente. Sì. Ecco, ma dove si può arrivare? A che velocità si può arrivare? E a quali puntate anche voi col vostro progetto che finisce fra 3 anni? Sì, allora, diciamo, prima di tutto come definiamo la velocità? La velocità la definiamo come il numero di volte che posso accendere e spegnere uno di questi dispositivi. E sappiamo che un dispositivo basato sul silicio può funzionare adesso a diversi gigahertz. Cosa vuol dire? Che possiamo accendere e spegnere questi oggetti miliardi di volte al secondo. In realtà un dispositivo plastico di laboratorio fino a poco tempo fa poteva essere acceso e spento qualche migliaio di volte al secondo, quindi ci sono proprio ordini di grandezza di differenza. Quello che abbiamo incominciato a fare è di aumentare questi cicli di accensione e spegnimento, e siamo arrivati a milioni, decine di milioni di volte al secondo. Ci proponiamo come obiettivo alla fine di questo progetto di arrivare verso la soglia del gigahertz, quello che diceva prima, quindi questi miliardi. Quindi del miliardo di operazioni al secondo. Esattamente. Va bene, grazie Caironi. Grazie a lei, buonasera. È tutto anche per questa sera da Maurizio Melis, buona serata e buon fine settimana, appuntamento a lunedì.